Parte terza. Il beneficio di Cristo. Lettera inviata a Napoli dalla città pontificia di Viterbo, indirizzata a Gian Pietro Carafa, datata 1 maggio 1541. All'onorandissimo signore mio Giovanni Pietro Carafa in Napoli. Signore mio reverendissimo, le notizie che la signoria vostra mi dà sulla sconfitta dell'imperatore ad Algeri e sulla rotta delle sue truppe in Ungheria, per mano dei turchi, lasciano ben sperare questo cuore di vedere presto l'Asburgo piegato sotto i colpi dei suoi avversari e il suo immenso potere sfaldato. Se a questo si aggiungono le novità dalla Francia, ovvero le intenzioni di Francesco I di riprendere la guerra, sento che il momento è particolarmente propizio alle speranze di vostra signoria e di questo suo servitore. Mai, prima d'ora, l'imperatore si trovò tanto in difficoltà nel controllo dei suoi immensi confini. Mai prima d'ora il suo debito presso i banchieri tedeschi fu più grande e lungi dal poter essere saldato. Non stupisce dunque che egli cerchi di riunire la cristianità sotto il suo vessillo, facendo concessioni ai principi protestanti in Germania, affinché accorrano in suo aiuto nelle pianure ungheresi e nei Balcani, contro l'avanzata di Solimano. I luterani sono ormai consolidati nella Sassonia e nel Brandeburgo, e l'imperatore è disposto a prendere atto e ad accondiscendere a che Roma resti per sempre fuori da questi principati. Tuttavia, la speranza di chi intende ostacolare il potere di Carlo V è che i principi non cedano alle sue lusinghe e continuino a guardarlo come si guarda un nemico forte con cui scendere a patti, ma da non scegliere come alleato. Le simpatie di Filippo d'Assia non sono infatti un buon segnale. L'imperatore ha chiuso entrambi gli occhi sulla bigamia dell'Angravio, pur di averlo di nuovo al fianco, e quest'ultimo si è prestato a un vile mercato. Ma tant'è, spingere la Chiesa romana e i teologi luterani a sedersi a uno stesso tavolo è l'intento che Carlo persegue con ogni mezzo, e non v'è dubbio alcuno che darà battaglia. Non essendo riuscito a sconfiggere i principi luterani, oggi vorrebbe farsi paladino della cristianità riunita, all'insegna della nuova crociata contro i turchi, sicuro che ciò lo renderebbe invincibile. Per questo è disposto a spendere ogni sua residua risorsa. Fortunatamente, ho il piacere di apprendere che la dieta di Worms non ha dato i frutti agognati da Carlo. I dottori luterani continuano a guardare in cagnesco la Santa Sede e i principati cattolici. Poiché ho conosciuto personalmente Lutero e Melantone all'epoca della loro ascesa, posso aggiungere che sono uomini troppo orgogliosi e sospettosi per accondiscendere a una riconciliazione con Roma. Ciò gioca a favore dei progetti di vostra signoria e per intanto impedisce quel riavvicinamento tra cattolici e luterani che oggi sarebbe esiziale. Tuttavia, il pericolo, invece di giungere da Oltralpe, potrebbe sorgere dal grembo di Santa Romana Chiesa. Il nuovo abito che la signoria vostra ha voluto concedermi di indossare per servire ancora la causa di Dio e l'osservatorio privilegiato a cui sono riuscito ad accedere mi consentono infatti di attingere alle notizie di prima mano e di raccogliere molti elementi che la cura del mio osservandissimo signore richiede non siano tralasciati. Ancora una volta, la lungimiranza della signoria vostra si è rivelata più che efficace. Posso dunque affermare con certezza che quello che va costituendosi qui a Viterbo, presso la sede del patrimonio di San Pietro, è un vero e proprio partito favorevole al dialogo con i luterani, il quale può prestare il fianco alle aspirazioni dell'imperatore. La signoria vostra suole definirli spirituali, alludendo con ciò ai cardinali aperti ad alcune delle pericolose dottrine di Lutero e di quel novello eresiarca ginevrino di cui oggi tutti parlano, Giovanni Calvino. Tuttavia, benché di certo il circolo viterbese graviti intorno al coltissimo cardinale Polo, devo informare il mio signore che la cerchia di persone di cui costui si è attorniato da quando è stato nominato governatore papale del patrimonium include letterati d'ogni sorta, laici e chierici provenienti da mezzo mondo, uniti dal comune intento di aprire la Chiesa alle stanze partorite dal perfido Lutero. Proprio questa ingenua accettazione di ogni intelletto che si offra alla loro causa ha consentito a questo solerte servitore di vostra signoria di entrare a far parte del circolo e di ottenere i favori dei suoi membri più illustri. Sono stati più che lieti di avere tra le loro fila un letterato tedesco che conosce bene i testi prodotti nelle università germaniche. Mi sia dunque consentito esporre l'impressione che ho potuto riportare di colui che senza dubbio è da considerarsi l'ispiratore di questa congrega, ovvero il cardinale inglese Reginaldo Polo. Egli gode della limpida fama di martire della cattolicità per essere dovuto scappare dalla sua terra a causa dello scisma perpetrato da Enrico VIII, e questo rende arduo sollevare qualunque genere di sospetti sulla sua ortodossia. È uomo colto e raffinato, incapace di sospetto e malafede, genuino sostenitore della possibilità di avviare un dialogo con i protestanti, al fine di ricondurli nell'alveo di Santa Romana Chiesa. Come evidenziavo poc'anzi, non v'è dunque da stupirsi che l'imperatore guardi a questo pio uomo di Chiesa come a un campione dei propri interessi. Il Polo è anche nelle grazie del cardinale di Bologna Contarini, il prescelto da Sua Santità Papa Paolo III per condurre nuove trattative con i luterani a Ratisbona, dopo il fallimento della dieta di Worms. A costoro si aggiungano il cardinale Morone, vescovo di Modena, il Gonzaga di Mantova, il Giberti di Verona, il Cortese e il Badia nella Curia Pontificia. Tutti praticano nei confronti delle dottrine protestanti una condotta piuttosto flessibile, predicando la persuasione dei fratelli che hanno deviato dalla strada maestra di Roma e di conseguenza aborrendo la persecuzione di tali idee con la forza della coercizione. Reginaldo Polo, come la signoria vostra non ignora, è uomo di lettere che ha studiato a Oxford insieme a quel Tommaso Moro le cui vicende tanto hanno scosso la cristianità. Martire amico di martiri. Le sue credenziali paiono davvero inattaccabili. Egli ha poi ultimato gli studi a Padova ed è quindi anche un buon conoscitore della realtà italiana. Non è dunque difficile immaginare quanto si intenda con i letterati di cui si circonda, e in particolare con Marco Antonio Flaminio, poeta e traduttore nelle grazie di Sua Santità Paolo III, e che per questo la signoria vostra avrà sicuramente già sentito nominare. Il sodalizio tra il Polo e il Flaminio, stretto qui a Viterbo, non è, a mio avviso, meno pericoloso di quello che si consolidò più di 20 anni fa a Wittenberg tra Martin Lutero e Filippo Melantone, quando una fede testardamente vissuta incontra le lettere, ciò che nasce è quasi sempre qualcosa di grandioso, nel bene o nel male. Quanto prima mi sarà possibile far pervenire la signoria vostra ulteriori notizie sulle trame viterbesi, tanto prima il mio desiderio di servirla sarà appagato. Bacio le mani di vostra signoria. E alla sua grazia mi raccomando. Di Viterbo, il giorno 1 maggio dell'anno 1541. Il fedele osservatore di vostra signoria, Q.